Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E grande Oscar, è un gran venerdì. Sempre sto venerdì. Sì, si lavora anche oggi, sabato, domenica, tutti i giorni. Comunque sì, è venerdì 22 aprile e c'è un santo combattivo, perché non è lo stesso che ricordiamo i nostri studi classici, però c'è anche un San Leonida. Ah, naturalmente martire sotto Settimio Severo, nonché padre di Origene, un altro dei padri della Chiesa. Tra i santi di nome, di quelli che si ricordano, sono diffusissimi intorno a noi: Agapito, Epipodio, Opportuna. Scusa, San... Epipodio o Pipodio, no, cioè era Epipodio. Pipodio, no, non era Epipodio. Non è che c'è Agapito e Pipodio, come direbbe Totò, Pipodio. No, Epipodio, quindi dal nome si capisce che era greco, era dell'Asia Minore. Opportuna, Santa Opportuna. Ma sarebbe vero chiamare una figlia Opportuna, pensa un po', poi ti cresce invece della guardia di finanza. E Sotere o Sotero, che poi è il termine greco per salvatore, quindi insomma oggi è il cosiddetto Earth Day, cioè il giorno della Terra. E che dire, nel 1978 oggi debuttavano, visto che tutti parlano di Prince, i Blues Brothers. I Blues Brothers è il mio punto di riferimento della vita, e debuttavano al Saturday Night Light Show, che era per anni un punto di riferimento della musica e dell'intrattenimento televisivo negli Stati Uniti. Allora, cari ascoltatori, mentre mio fratello mi scrive che non mi sente tanto entusiasta a parlare di calcio, non si capisce perché. Infatti, non si capisce. Però stendiamo un velo pietoso. Cari ascoltatori, oggi parleremo di legittima difesa, perché si discute molto, perché Oscar già teme, io lo so, già teme le telefonate, il tenore delle telefonate, che saranno più o meno queste, però entra uno in casa, una pistola, gli sparo in testa. I temi sono questi, cioè nel senso che e anche la percezione delle persone. Sai forse perché? Perché su Repubblica si legge: sai quando vi svaligiano la casa? Ecco, bravo. Quando vi svaligiano la casa, le forze dell'ordine trovano i responsabili nel 2,7% dei casi. Perché i magistrati non considerano quelle notizie di reato sufficientemente degne della loro grande attenzione. Ah, dici che è per mentre quello? Invece, come vedi da altre interviste che ti piacciono tanto, altre vicende, quelle sì che sono degne della loro sovrana. Beh, la corruzione. Scusa, oggi Davigo fa un'intera pagina sul Corriere. Stai dicendo quindi che i furti nelle case sono meno importanti? No, meno importanti no, sono molto importanti, molto importanti. Tanto certo, quanto la corruzione. Per carità, infatti io rispetto... Ma come vedi, l'obbligatorietà dell'azione penale si conferma da questo semplice scambio di fatti oggettivi tra me e te come una pietosa illusione, tanto per cominciare, perché alla fine il PM, siccome non può occuparsi di tutto, dice: furti, certo, in casa, cazzi vostri, corruzione, grandi titoli. Peggio coi borseggi. Corruzione, grandi titoli. Corruzione, grandi titoli, adesso li vediamo. Peggio coi borseggi. Nel caso dei borseggi e gli scippi, guardate che sono una roba di allarme sociale. Io vivo in una zona di Milano vicino a Viale Padova, insomma, anche l'altro giorno, la mattina, in pieno mattina, mi ha detto l'edicolante, ha cercato di rubare una collana una signora alle 11. Noi siamo entrati nel palazzo. Nel caso dei borseggi, io abito qui, ecco, per dirti. Appunto, nel caso dei borseggi, il 2% delle persone che fanno i borseggi e scippi vengono beccati. 2%. Capito? E tra l'altro, come dice nell'intervista Davigo, una volta, dice, a San Vittore entrai, c'era davanti a me un borseggiatore cileno arrestato 4 volte, mi accolse così: che bel paese l'Italia, perché appunto il sottinteso era: se vengo in Italia mi pizzicano, libero mi lasciano. Ma quindi è così, no, guarda che di solito quella battuta però ricorreva sulle bocche dei poliziotti contro i magistrati, non so se ti rendi conto. Invece adesso la pronuncia un magistrato singolare, ti pare? Chi è che lo manda libero, il signor cileno? Beh, lo manda libero, certo, un altro giudice. Certo. È caduto. Però alla immagino, fine è scappato un errore. Immagino che Davigo voglia dire, perché non ci sono le leggi, sufficientemente capestro. Io non credo, in caso di recidiva, che la legge non sia capestro. Però mi ha stupito molto quell'ultima, perché l'amore della battuta lo ha reso un po' incauto sul fatto che stava criticando. Però infatti lo dice: i paesi con una repressione penale più debole attirano, importano il crimine. Mentre questo cileno era stato arrestato in Canada, dice si è fatto 2 anni di carcere. Sì. Noi invece, che quindi vorrebbe più repressione penale. Ma che voglia più repressione penale, da Diego, mi pare che non sia. Non è una notizia. È visto nel nome oramai dopo tanti anni, lo sappiamo. E gli fanno la solita domanda: ma lei ha mai detto che non ci sono gli innocenti, ma solo condannati da accertare? Certo, dice lui. Si dice, l'ho detto in un contesto preciso, se no mi fanno passare per matto. Ma chi, no, fuori no, contesto. Lui lo sì, dice. Non, lo dice. Mi fanno. Comunque, insomma, Davigo oggi dice, secondo me la frase più forte è quando dice: in Italia hanno vinto i corrotti. Cioè una missione, come dire, di, cioè, alziamo le mani, dice: ecco, in Italia hanno vinto ormai i corrotti. E questo distinguiamo, questo può essere un fatto oggettivo. Se vediamo le cronache, c'è poco da fare. Ragazzi, ma Cazzullo, infatti, cioè, chiede, i 124 ma inquisiti pensa? Del PD non testimoniano che non c'è più neanche la presunta differenza tra etica da una parte e etica dovunque. Questo è un fatto. E infatti dice: i politici rubano più di prima di Mani Pulite, con la differenza che allora magari si vergognavano una volta presi, adesso neanche più. Vergognavano allora? No, non lo so, questo io riferisco a quello, cioè, che dice Davigo. Il punto è che quando esplose quella cosa, non dimentichiamolo, c'è chi si è suicidato, c'è chi si è suicidato quando poi le indagini erano arresti a raffica, quindi questo è vero. Però è anche vero che la corruzione domina. Allora, di fronte a questo ti faccio una domanda. L'opinione di Davigo è che il pubblico ministero non serve più per fare azione penale, per aprire un fascicolo tutte le volte che c'è una notizia di reato o una notizia di sospetto di reato, come dice il codice. Però dice invece che bisogna trasformare il nostro ordinamento e trasformare lo Stato in agenti seduttivi che si vadano a offrire come occasione di reato. Lo so, questo è un punto sul quale tu sei molto molto scettico, per usare un eufemismo. Credo che sia proprio uno stravolgimento della missione della giustizia. Davigo dice mandiamo dei poliziotti sotto copertura a dare mazzette, e se uno le prende, tac, arrestato. Piacerà la gente, tutti inneggeranno per lui. Però non esiste, lo Stato non esiste per fare seduzione di reato. Lo Stato non è il serpente che dice a Eva prendi la mela. Cioè lo Stato deve intervenire con i magistrati quando c'è un'ipotesi. Quando la mela la ruba e te la mangi. Ma cioè, non deve creare i presupposti. Quella è la psicopolizia di Orwell. Sono i meccanismi autoritari da sempre quelli che diffidano, dando per scontata la natura umana prava, e dicono: lo so che tu sei in fondo, tu non chiedi niente di meglio che il sottile gusto, ti do l'occasione, tocca le tette. Ah, porco, ma come? Cioè, scusa, ma dai, no, non era proprio sulle tette, no, però insomma, ci siamo capiti, la tentazione, no. Però sai cosa dice Davigo? Dice: guarda che questa è una cosa che proponeva anche Cantone, sì. Guarda caso adesso non lo propone più. E mi fermo qui. Attenzione, qui sappiamo, l'implicito è: Cantone è diventato governativo. Adesso non voglio dire complice, non voglio dire stampella, però mettetela come vuoi. Però lui dice: chi va allo zoppo è costretto a non dire più come si cammina correttamente. Sì, ricordiamo anche, perché Cantone lo disse a una tua esplicita domanda qui a 24 esatto. mattina, attenti a noi due, disse che con l'ANM non aveva rinnovato la tessera. C'è un po' di ruggine, fai bene secondo me a ricordare Davigo, questo aspetto. Sac. Non ci paghi la tessera e allora io ti dico che sei un politico. Esatto. Però insomma questa cosa della psicopolizia non ti piace, cioè di no, andare. Però lui dice lo si usa per esempio molto nella pedopornografia, anche capito? Qui, è per questo che ho detto. Cosa che e nella droga, nel sta cosa del sesso. Droga. Adesso non dire che è una maniera per parlare male di Davigo, certo. L'abbiamo già notato al precedente, c'è sempre questa cosa del sesso, che ma è lui che fa il bacchetto, c'è sempre nelle interviste di Davigo. Però anche dice nel traffico di droga, cioè si infiltrano i poliziotti, sì, e poi si beccano i manigoldi, diciamo così, no? E quindi dice: perché non si dovrebbe fare anche per la corruzione? Ripeto, è la domanda. Rendiamo le forze dello Stato il grande apparato che Torquemada sognava. Ma questo è, cioè, c'è un'idea, secondo me, completamente diversa di che cos'è lo Stato, a cosa serve lo Stato, che, come, si, come inizia un'azione penale. Un'azione penale inizia di fronte a una notizia di reato, non con la creazione di una notizia. Però io devo dire la verità, c'è la frase che mi piace tantissimo, netta, netta, e io sono sicuro che Davigo la pensa davvero così, è quella che dice che i magistrati non dovrebbero fare mai politica. Mai politica. Sì, sì, lui questo l'ha sempre detto. I magistrati non dovrebbero mai fare però, politica. Però consentimi di sorridere. Ieri hanno sanzionato la povera adesso, bisogna stare attenti, la simpatica, non so come si può dire, pubblico ministero di Imperia, Barbara Besci, perché aveva fatto una innocua battuta su Garco, la sì, donna è su quella cui indaga, però, ecco, che però su cui sta indagando per il fatto dell'esplosione. Indagava per un'esplosione di una bombola di gas, non è che stava indagando. Ha scritto perché... mi sono rifatta gli occhi su Facebook. Ho capito, ha scritto sono rifatta. E la sanzione immediatamente, la sezione la sanziona subito perché si espone troppo sui social. Ma Davigo cosa gli devono fare? Sta sempre lì a tonnellate di carta. Però lui è il presidente, ma dai, del sindacato. Ma rendi conto, allora, la magistrata donna, che naturalmente i giornali pubblicano con rossetto, perché anche l'informazione, mettiamoci il nostro, non è che mettono la fotografia del sopralluogo in cui il PM sta coi jeans, cioè, no, bisogna mettere la foto con la boccuccia, con perché ha fatto la volta su Garco. Ma ti rendi conto che anche noi ci prestiamo delle follie? E la sanziona no, la sanziona no. Ha tolto il fascicolo, sì. Guarda, sai cosa mi scrive un ascoltatore qua? L'agenzia delle entrate fa così, cioè con la psicopolizia. L'assista Oscar Giannini. No, ma però Oscar, voglio dirti, siamo attenti, perché lo Stato che ci viene a dire perché non commetti reato? Perché uno dice che era un po' tocca vuoi commettere reato, toccato, ma ti rendi conto che è una cosa pazzesca, almeno per me, per i miei presupposti. Magari alcuni pensano che sia efficace e quindi bisogna arrivare a questo. Dopodiché li leggiamo, li facciamo tutti vedere il film Brasil, però te lo ricordi il film Brasil? Straordinario. Bravo. Brasil, esatto. Straordinario. Cosa mi hai trovato veramente, cosa mi hai scovato? Perché Brasil è un film di quelli che ricorda, che fantastico, uno... Guarda che molti ascoltatori, sono sicuro, chiamateci, penseranno a giusto così, se tu non sei corrotto dirai no, non accetto la mazzetta, ma anzi io la denuncio. È la prova contraria. Io la denuncio. Vedi, la prova contraria, quella del malleus maleficarum, cioè dello strumento principe che uno sia con un cui malvagio. Noi abbiamo mandato qualche milioncino di donne al rogo perché tu sei una strega. Provi il contrario, che non sei una strega. Ah, dici che non sei una strega? Aha, allora sei una strega. Capito? È così. Senti, è Piero da Savona ci chiama. Piero, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Spero di fare un discorso di senso compiuto, magari di completarlo, magari mi piacerebbe anche interloquire eventualmente. Comunque, vediamo. Riguardo la legittima difesa, no? Sì. E poi io voglio iniziare partendo dalle armi da fuoco in generale, poi arrivare al discorso più specifico. Voglio citare Beccaria, che spesso viene citato anche da Giannino, da molti giornalisti, intellettuali, riguardo l'umanità delle pene, piuttosto che la contrarietà alla pena di morte. Ma lo stesso Beccaria riteneva il porto d'armi da fuoco uno strumento essenziale di deterrenza del crimine. Assolutamente. E diceva: idea sbagliata è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente immaginario di troppa conseguenza. È come togliere il fuoco perché incendia l'acqua, perché incendia o l'acqua perché annega. E le leggi restrittive in tal senso disarmano le persone che non hanno nessuna inclinazione al crimine, mentre i delinquenti non le rispetteranno di sicuro. Vabbè, questo scrive, eccetera, eccetera, posso andare avanti. E anche riguardo gli Stati Uniti, che spesso si citano, no? Si dice sempre tanti morti per armi da fuoco, però nessuno che mai dica quante sono fatte con armi illegali, quante nelle lotte tra gang, quante volte queste morti sono causate dal buono. Vabbè, che si difende contro il cattivo. Dice, le armi non sono il male di per sé. Tante volte abbiamo ricordato che l'emendamento alla Costituzione, che costituisce il fondamento per il diritto a portare armi da fuoco negli Stati Uniti, nasce perché era un diritto a sparare contro il governo federale, quindi si figuri, ne abbiamo anche parlato, però dica. Sì. E riguardo la legge attuale, no? Sto parlando della legittima difesa, che è quella del 2006, che è stata modificata, no? Su spinta della Lega. Già adesso questo dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Però poi dice che con la modifica questa sussiste una presunzione assoluta nei casi di reazione avvenuti durante la commissione di delitti di violazione del domicilio e in presenza di un pericolo di aggressione fisica. Quindi praticamente già adesso, teoricamente, chiunque si difenda non dovrebbe incorrere in nessun problema. Il problema particolare. Il problema è che è lasciato poi all'interpretazione del giudice, perché si va a vedere sempre il cavillo, quello era girato in 32 gradi, il goniometro, eccetera, eccetera. Quindi ritengo giusta adesso la proposta attuale della Lega che insomma va giù, taglia questo nodo, perché adesso il PD vuole migliorare tra virgolette la legge inserendo l'elemento psichico, un'altra fregatura, perché aumenterà nuovamente la discrezionalità. Vabbè, Pietro, lei ci ha fatto praticamente la trasmissione, insomma, invece di darci un parere, però la ringraziamo. Piero. Perdoni, Piero da Savona, la ringraziamo per il suo intervento, anche esaustivo, come direbbe Biscardi. Adesso capisco che molti ascoltatori dicono meglio precisare meglio l'articolo. Cioè, secondo voi una norma, ce l'hanno già riassunta, l'ascoltatore, grazie, secondo me è abbastanza chiara quello che c'è scritto, no? Ti entrano in casa, c'è il pericolo di aggressione, poi resta la proporzionatezza della tua reazione. Sì. Allora, detto questo, entrare nei dettagli dicendo se in casa con voi c'è vostro figlio naturale, o vostra suocera, potete sparare, esatto, nel primo caso, la seconda un coltello. Secondo voi davvero bisogna tipizzare ogni singola fattispecie del affini e cons? Ecco, io lì mi fermo, perché io non credo che le norme debbano. Però no, io capisco, no, io sono dell'idea che, per esempio, la posizione del PD, e dopo avremo Davide Armini, è nel momento in cui uno ti entra in casa già ti crea quella situazione psicologica di turbamento, per la quale tu sei autorizzato a reagire, anche se questo non ha un'arma, perché io sono abbastanza d'accordo, anch'io. Anzi, sono totalmente d'accordo. Totalmente, uno, esatto, mi entra in casa, sono d'accordo, cioè, dicendo datemi tutto o vi ammazzo. Ma ragazzi, ma uno deve stare a vedere se uno ha un'arma o no. Ma è un'arma, no? Ma può graduare anche l'eventuale reazione, visto che in questo caso la legge lo consente, a seconda del soggetto familiare che è con te, cioè con i figli sì, con la suocera no. Ah, scusami, aspetta, scennetta, arriva il ladro e dice alt, la suocera, alt, moglie, caccia fuori. Dunque, cosa possiamo fare qua? Ma dai, su ragazzi, in pochi secondi, chiunque se si immagina quella circostanza. Chiaro, no? Andrea ci chiama da Pistoia invece. Andrea. Buongiorno Oscar, buongiorno Mila, a parte che sono un cacciatore e quindi che la penso in questa maniera, che non... Vabbè. Però volevo intervenire sull'altro argomento delle mazzette, sì, che in America funziona già in questa maniera, c'è già un marshal o un agente mandato a corrompere in determinati uffici per vedere se prendono la mazzetta o meno. E potrebbe essere una, visto che l'Italia è il paese del furbetto, a lei piace l'idea, sì. Basta con questo buonismo, con tutti questi E perché un altro parere che avete detto su quello che dice il giudice deve interpretare una legge, ma c'è la legge o la fa il giudice? Perché la mia compagna è avvocato, la mia compagna è avvocato e mi dice te hai ragione fino a che te la dai il giudice. Ma come, se c'è una legge scritta? Ma che la deve interpretare, capito, lui? La legge non è matematica, non è una formula matematica. Capisco, allora, no, capisco. Consentimi anche di dire, simpaticissimo, tra l'altro ottimo avere una moglie avvocato. Pensa che la moglie è magistrato, madonna mia. Detto adesso, no, magistrati donne, non potete sposarvi. Perché... No, dico, mio Dio, il terrore è doppio, voglio dire, perché a quel punto corri il rischio di misure cautelari. Certo. No, sto scherzando ovviamente. Sto dicendo però, attenzione, questo mito che vi mettono in zucca, in America c'è già. In America, come quello che dice lei, i federali, perché questo riguarda i reati federali, fanno così: quando o c'è un whistleblower, cioè qualcuno da dentro che segnala, allora quella è una notizia di reato e allora il federale può andare. Oppure fanno così quando si cercano, si hanno delle ragionevoli prove di reati federali e non se ne hanno ancora però delle prove concrete, e allora si vanno a cercare filoni paralleli, tipo fiscali. Beh, insomma, Mario, però, ripeto, non Mario Chiesa, Magni fece arrestare Mario Chiesa così, cioè era uno che gli chiedeva le mazzette, quindi però, gli misero la mazzetta. Vi assicuro, vai che negli Stati Uniti lo Stato non viene a sedurti per commettere reati, cioè qui questa cosa state attenti, perché le ipersimplificazioni di qualche giornalista collega di là, che magari copiazza non troppo bene gli articoli, alla fine vi fanno credere che negli Stati Uniti si va in galera per 1000 anni per fisco. Non è vero, sì, lo Stato è già lo Stato di polizia. Gli americani non sono proprio molto favorevoli allo Stato di polizia, ve lo garantisco. Comunque, legittima difesa, tra poco avremo Luca Zaia, governatore del Veneto, e Davide Armini, onorevole responsabile di giustizia PD, e voi se volete, tra poco. Ma se restiamo liberi, magari arriva Davide. Dai. Sono le 8:41 minuti, eccoci caro Oscar. Eccoci allora, qua. Parliamo di legittima difesa. Parliamo di legittima difesa. si riparte da capo, perché per il momento la revisione della legge sulla legittima difesa è un po' sospesa, diciamo così. Però al di là delle questioni politiche, qui si sta discutendo se, diciamo, a livello come vuole la Lega, ci vuole una legittima difesa sempre e comunque, cioè una persona che viene attaccata in casa, eccetera, ha legittimamente sempre il diritto a difendersi, o se bisogna in qualche modo stabilire anche, fissare un'asticella su dove può arrivare il grado di difesa di quello che viene offeso, no? Perché il punto caldo in moltissimi casi di questo tipo, come si tocca con mano ogni volta, è esattamente la valutazione della proporzione esistente nel tipo di reazione, quindi di legittima difesa. Uso armi da fuoco, maledante, la morte, dentro casa, fuori casa. Se è iniziato dentro casa la reazione, esatto, fuori casa, se sulle scale. Se stava scappando, ne abbiamo viste di ogni, no? Allora è eccesso ogni giudice di legittima difesa, sì, è chiaro. Allora, ne parliamo con l'onorevole Davide Ermini, responsabile di giustizia del PD. Buongiorno, buongiorno Ermini. Buongiorno a voi, grazie. Così come Luca Zaia, governatore del Veneto. Buongiorno e bentrovato, Zaia. Buongiorno, grazie per l'invito. Nel giorno in cui, tra l'altro, è una vicenda che tutti ricorderanno, Graziano Stacchio, lo ricordate tutti, il benzinaio che ha sventato una rapina e ha ucciso un rapinatore. E la procura ha chiesto l'archiviazione. Zaia, la Lega è sempre stata vicina a Stacchio, quindi immagino che sia contento di questa richiesta. Siamo felici di questa richiesta, poi sarà tutto da dimostrare se l'archiviazione verrà data. Ciò non toglie che ci sono molti Stacchio che l'archiviazione non l'hanno mai neanche vista in fotografia. Ma lei che pensa? Perché se per la Lega ci vorrebbe una legittima difesa sempre e comunque? Cioè nel momento in cui uno viene aggredito può e deve difendersi se ha un'arma o in qualche modo e non deve essere mai neanche indagato? Ma guardi, io penso che sia un fatto di buon senso. L'idea che abbiamo noi del futuro non è quella di avere dei cittadini pistoleri che abbiano la revolver sopra il comodino in camera. Però è altrettanto vero che oggi i dati che ci vengono dati, scusi il bisticcio di parole, sono un resoconto di quello che accade in Italia, è un resoconto abbastanza inquietante. 250.000 furti in abitazione, pensi che si fa un furto ogni 2 minuti. Il 62% sono commessi da stranieri e solo il 6% va in carcere. Quindi, alla luce di tutto questo e del fatto che i furti sono diventate molto spesso rapine, 3.000 rapine in villa fra l'altro l'anno scorso, nel 2015, dalla dimostrazione comunque dobbiamo mettere nelle condizioni il proprietario di casa, colui che difende la propria famiglia, di non essere l'aggressore ma sia ovviamente la vera vittima del furto, di quello che accade poi nella sua abitazione. Sì, questi dati Istat e l'Oscar sono impressionanti, effettivamente. L'abbiamo già detto prima, nel caso di effrazione in appartamento solo nel 2,7% dei casi viene preso il colpevole. Questo ovviamente spinge che cosa? A reagire, non so. Mi perdoni se le interrompo, ma vorrei aggiungere un fatto, ma non per far polemica, però ricordiamo ai cittadini che andare in galera con questi reati bisogna mettersi d'impegno. Le forze dell'ordine, cioè gli addetti ai lavori, ci dicono che quando viene pizzicato un ladro durante un furto, minimo ha commesso altre 10 volte questo reato. Quindi noi sappiamo che non vanno in galera e sono dei professionisti poi alla fine, no? Onorevole, qui si ricade nella cosa che citavamo prima, come no, di Davigo. Davigo ha pronunciato quell'esempio esattamente analogo alle parole che ci ha detto adesso. Sì, cioè, l'esempio del cileno che dice cileno. Viva l'Italia, qua tanto io riesco sempre tutte le volte che mi prendono. Che accolse Davigo così, bel paese l'Italia. Però grazie. Resta il fatto che un giudice, cioè Davigo in quel caso ce l'ha col giudice, non ce l'ha con la legge. Però, questo sì. Onorevole Ermini, abbiamo letto della proposta del PD che sostanzialmente la possiamo tradurre così, poi lei ci corregga se sbagliamo. Già il fatto che uno mi entri in casa mi crea un turbamento psicologico tale per cui la persona in casa può difendersi, se ha un'arma anche usarla. Questa è la legittima difesa che voi vorreste? Sì, perché guarda, io non vorrei però confondere quella che è l'esigenza di sicurezza, che è reale, perché i 250.000 furti e la poca impunità è evidente che c'era quando governava la Lega e c'è adesso. No, la tanta impunità, non può. La tanta impunità. Tenete conto che la legge attuale sulla legittima difesa è quella della Lega, che fu fatta nel 2006 dal ministro Castelli. E fra l'altro funziona anche, perché se per Stacchio viene chiesto l'archiviazione, come noi avevamo già detto fin dall'inizio, è evidente che quella legge in qualche modo funziona. ci sono delle cose da dover aggiustare. Allora, loro fanno questa proposta sostanzialmente della legittima difesa con delle indicazioni oggettive, per cui una volta che accade in particolari circostanze, la legittima difesa non può essere messa in discussione neanche dal magistrato. Noi facciamo un ragionamento diverso, noi diciamo che la legittima difesa esiste sempre, indipendentemente dalle condizioni oggettive, noi diciamo che contano di più le condizioni soggettive. Cioè io, persona che sono in casa e che vedo un'ombra in camera, in salotto, non devo stare a guardare se quel soggetto è armato o non è armato, se ha un temperino, se ha una pistola. Se vedo, se sono soggettivamente colpito e turbato, io rispondo, quindi posso domani dire al magistrato: guardi, io ho commesso un errore perché quello non era armato, ma la colpa è stata la sua perché è stata in casa mia in modo... E in quel caso in una illegale. Persona così non deve essere indagata? Assolutamente, secondo... no, indagata, questo è difficile, perché anche questa storia che il magistrato non possa mettere bocca, perché la Lega dice ci dovrebbe essere una, un'area in cui la legittima, la difesa è sempre legittima, il magistrato non può mettere bocca. Non è vero, perché se c'è un morto per terra il magistrato un fascicolo lo aprirà sempre e comunque, sì. Anche solo per verificare che quei requisiti della legge della Lega ci fossero, siano in qualche modo sussistenti. Per cui è comunque sempre così che alla fine il magistrato l'ultima parola ce la dovrà mettere, e credo che in un paese civile il fatto che il magistrato faccia una valutazione sul caso che è avvenuto sia una cosa normale. Però non è un caso che non sposta di molto rispetto a quello che è adesso, cioè ci potrà essere poi il magistrato che dice stava scappando, non era proprio... Se no chi lo valuta? Scusi, cioè nel momento in cui io sparo una nel persona... momento in cui lei dice se uno entra in casa io posso reagire, certo, dire, io posso reagire, se è automatica la questione. Certo, però io devo dimostrare che in quel momento sono sotto turbamento, perché se nel caso quello mi scappa per le scale, giustamente, io non è che lo posso inseguire per strada e freddarlo dopo, però, questo non lo posso fare. Però io avevo capito che la sua proposta era se uno mi entra in casa, nel momento in cui mi entra mi crea già il turbamento automatico. Esattamente, e quindi voglio dire, non devo dimostrare che ero sotto turbamento, lo mi è entrato ma, in casa. Ma siccome un fascicolo il magistrato lo aprirà, io dovrò dire questo mi è entrato in casa, il magistrato prenderà atto di questa situazione, è una cosa ovvia, ma questi sono diciamo i casi più semplici, diciamoci la verità. Il fatto di trovare una persona in casa è un fatto molto semplice, sì. È facile da spiegare. Ci sono poi delle fattispecie che si creano via via, perché gli episodi sono tutti diversi, ognuno ha la sua storia, su cui è giusto che il magistrato ci metta gli occhi. Posso fare una domanda per far capire a chi ascolta e anche a me? Allora, anche con il suo testo, se capisco bene, ladro in casa, e in casa si crea la condizione, come ci ha spiegato, per una reazione legittima, proporzionata, quindi ladro in casa, anche l'arma. Allora, il ladro nel frattempo è visto da me con tutti i gioielli, esce o dal balcone e si cala giù, oppure classico la tromba delle scale. Io oltre la porta, secondo lei, ho la pienezza del mio autocontrollo, per cui ammettiamo che avessi un'arma, che stesse reagendo, varca la porta di casa, se io a quel punto con lui con i gioielli in mano però vi sparo, finisce, nel senso che io non sono tutelato, non è legittima difesa, ho capito bene? No, secondo me in quel caso si può configurare legittima difesa, perché la legittima difesa tutela anche i beni, non solo l'incolumità fisica, per cui se quello mi svaliga la casa e io gli intimo l'alte, evidentemente io cercherò nel caso di lucidità di sparare a una gamba, ma perché non sono proprio lucido, ecco, il turbamento psichico, purtroppo il soggetto muore, io credo che lì si possa chiedere l'applicazione della legittima difesa. Però su questo, forse Zaia, è proprio su questo che voi leghisti dite c'è un po' troppa, come dire, si sta troppo a disquisire. No, guardi, sì, la capisco, mi perdoni, vorrei solo chiarire alcuni aspetti. Il ministro Castelli modifica la legge dopo un dibattito pauroso a livello nazionale nel 2006, 10 anni fa. Allora c'erano le rapine agli orefici, alle oreficerie, e le rapine in strada, ci furono anche dei morti. Quindi nasce da lì poi questo aspetto. Oggi il tema si è molto inasprito, ho detto i dati prima. Non è assolutamente vero che il tema, l'introduzione, quindi la modifica dell'articolo 59 che fa il PD e della quale parlava Ermini, l'introduzione del turbamento psichico, non ha, lascia ancora un ambito, io non lo definirei di discrezionalità, cioè mettiamo invece nelle condizioni i giudici di lavorare bene. Guarda, io non faccio parte della categoria che mette i giudici sul banco degli imputati, penso che i giudici si ritrovino molto spesso in difficoltà perché il Parlamento legifera male. Quindi noi diciamo alla francese, qualcuno ti entra in casa, Sei turbato, questo qua se ne deve star fuori da casa tua, perché se entri a casa tua tu devi avere la libertà di poterti difendere, punto. La modifica che propone il PD invece introduce un principio che è quello del turbamento psichico. In un paese bizantino e borbonico come l'Italia, immagini cosa accade, possa accadere nei tribunali introducendo il principio del turbamento psichico. Vorrei però a conclusione anche dire, bene, noi abbiamo presentato questa legge nel febbraio 2015, è iniziata la discussione a novembre 2015, è stata rinviata a marzo in commissione e poi in queste ore è rinviata nuovamente in commissione. Faccio una domanda, perché il PD non approva a questo punto la sua legge con la modifica che ha fatto e la rinvia ancora in commissione? Vuol dire che anche all'interno della maggioranza non c'è chiarezza. Non c'è, c'è un po' di... Ma sulla questione invece del ladro che fugge, lei, Zaia, farebbe questo tipo di distinzione? Ma guardi, scappando. La nostra legge è molto chiara. Noi il 7 e l'8 maggio iniziamo a raccogliere firme. Ormai in preda alla disperazione e di fronte a un Parlamento, una maggioranza che non si assume le sue responsabilità, iniziamo la raccolta di firme, lo diciamo ai cittadini, 7 e 8 maggio, e non l'abbiamo fatto prima, vorrei chiarirlo, perché contavamo su una legge E invece adesso cosa dovete fare? Una legge popolare? Abbiamo depositato una legge, stremati da questa discussione parlamentare con due rinvii in commissione, che prevede la legittima difesa bella e buona alla francese, come è previsto nel codice penale, nell'ordinamento francese, ma prevede altre cose, l'inasprimento delle pene, il fatto che si portano dai 6 agli 8 anni e il fatto anche che non si sospendono le pene fino a quando l'aggressore non avrà pagato i danni morali e materiali all'aggredito. Invece noi qui sappiamo che a tutt'oggi solo il 6% degli sfortunatissimi, mi lasci dire anche sfigatissimi, che vengono arrestati vanno in galera. Insomma, quindi legge popolare, questa è raccolta di firme per l'esasperazione del fatto che in Parlamento non si ottiene una l'agenda risposta. Legislativa è sequestrata dal governo, questo è sempre intanto, di più negli anni. Intanto vi ringraziamo, è Luca Zaia, governatore del Veneto della Lega, e Davide Ermini, responsabile giustizia, PD e parlamentare. Il turbamento. Attenti però che se vedete un'ombra non potete sparare, magari è vostra moglie. No, c'era la famosa battuta di Grillo, sì. In America sparano, ma era il nonno, volevo andare a pisciare. Io faccio due battute sulla nostra, sul nostro mestiere. Ma come se avessero dedicato a tutti quelli del Panama Papers la stessa attenzione a chiedere l'opinione che hanno riservato a Rodolfo De Benedetti, che su tutti i giornali dice com'è, come non è. L'Espresso l'ha scritto, l'Espresso ha trovato il suo editore. I giornali gli fanno dire, ma io non c'entro. Antichi risparmi, l'hanno chiesto agli altri, no. No. E poi i giornali che pubblicano oggi chiunque la pagina per l'aumento del capitale della Popolare di Vicenza, che è una roba pazzesca, ragazzi, su, i giornali non dovevano pubblicarle quelle pagine. Ho come il sospetto che tu domani mattina ne parlerai. No, dai, è pazzesco. Comunque, noi ci siamo. No, lunedì noi siamo in diretta. In è diretta. Il 25 aprile, ecco, lunedì. Come oggi, venerdì noi siamo in diretta, no? Beh, sì, certo che siamo in diretta. Sempre in diretta. Sempre, noi siamo sempre in diretta. Vabbè. E poi lunedì 25 aprile non andate da nessuna parte, noi siamo qui. In diretta e vi controlleremo uno per uno. Assolutamente, e vi mandiamo anche per vedere se siete inclini a reati sessuali, come dice a casa, ve li mandiamo. Ciao. Le mie lunedì, le venerdì.